Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti del sabato, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In apertura torniamo all'incontro che si è svolto martedì tra il ministro Graziano Del Rio e rappresentanti delle associazioni di categoria che al termine hanno commentato con toni diversi l'esito del colloquio. Per una trans sono mancate risposte concrete alle istanze al centro dell'attenzione del comparto, a partire dall'effettiva disponibilità dei fondi stanziati dal governo, in particolare i 60 milioni destinati al momento solo sulla carta al recupero delle spese non documentabili. Questo invece è il commento di Paolo Uggè, presidente di FAI Conftrasporto. Nelle intenzioni e negli annunci non si può dire che il ministro Del Rio non abbia fatto prospettive interessanti. Il problema è che non possiamo continuare a ricevere assicurazioni sulle cose che si faranno e non si fanno le cose necessarie. Vorrei aggiungere un dato altrettanto preoccupante. La presenza dei vettori dell'Europa dell'Est nei traffici in Italia è passata dal 7% del 2003 al 47% del 2013. Anche questo elemento, voglio dire, dovrebbe far riflettere chi affronta la politica dei trasporti. Allora, bisogna fare un piano della logistica. Oggi si parla tanto del piano della portualità e della logistica. È una contraddizione in termini. Logistica è un sistema complesso. Da parte di Anita il giudizio espresso sull'incontro è sostanzialmente positivo. Il presidente Thomas Baumgartner ha ribadito la necessità di un intervento sulla tassazione che penalizza le aziende italiane rispetto a quelle estere. Ascoltiamolo. Io sono sicuro che questa tassazione non è neanche calcolata, perché bene, perché noi trasportatori paghiamo sì le tasse e tutto quanto, ma bisogna anche calcolarne che noi per esempio in Italia paghiamo l'autostrada che incide del 12%, dove in altri paesi queste non si paga, le accise sono le più alte in Europa. La tassazione veramente in Italia deve abbassarsi. Scendono i prezzi alla produzione nel settore dei trasporti, lo dice l'Istat in base ai dati relativi al primo trimestre 2015. In particolare rispetto all'ultimo trimestre 2014, per i trasporti su strada il calo è dello 0,5%, più significativa la flessione nel trasporto marittimo, meno 5,7%, e nel trasporto aereo, meno 3,5%. CNA Fita, da tempo in prima linea contro le infiltrazioni della criminalità organizzata, si costituirà parte civile nei procedimenti giudiziari a Emilia e Caronte, nei quali sono coinvolti imprenditori del settore dell'autotrasporto. Mai finora un'associazione di categoria aveva assunto un'iniziativa di questo genere. Cinzia Franchini, presidente nazionale di CNA Fita. Come CNA Fita abbiamo deciso di costituirci parte civile nei processi Caronte e Emilia, perché gli imprenditori che attraverso il loro agire criminale si sono mossi sul mercato hanno gravemente danneggiato le imprese sane e per bene che noi quotidianamente rappresentiamo. Ora siamo noi a chiedere loro il conto dei danni che ci hanno procurato nel corso degli anni. Dalla giustizia penale a quella amministrativa, Feder Distribuzione e ANCD hanno rinunciato all'istanza di sospensione della pubblicazione dei costi indicativi di esercizio delle imprese di autotrasporto per conto terzi. Le due associazioni della committenza avevano presentato ricorso al TAR del Lazio. Un incidente sull'autostrada ha coinvolto un tir che trasporta un carico altamente infiammabile. L'urto provoca la rottura di una cisterna, una situazione ad alto rischio per le persone e per l'ambiente circostante. È successo a Busto Arsizio, in provincia di Varese, ma per fortuna si è trattato solo di una esercitazione chiamata DETAM e coordinata dalla Regione Lombardia, con la partecipazione di vigili del fuoco, forze di polizia, ASL e comuni. Al nostro microfono Claudia Terzi, assessore all'ambiente della Regione Lombardia. Più di 100 persone coinvolte tra le forze dell'ordine, i tecnici che appunto hanno come scopo quello di verificare se le procedure sono effettivamente corrette. Il risultato è stato eccellente, nel senso che abbiamo dimostrato che tutte le procedure standardizzate arrivano al loro scopo, cioè effettivamente intervenire in maniera tempestiva e soprattutto efficiente in caso, ovviamente scongiurato, di incidente che coinvolga mezzi che trasportano merci pericolose. Devo dire, 6 anni anni da un doloroso evento che ha segnato la storia dell'Italia anche per quanto riguarda appunto il trasporto delle merci pericolose su rotaia quella volta, ma abbiamo ritenuto doveroso continuare con questa attività che è di prevenzione come danni ovviamente alla salute delle persone, quindi, ma danni anche alla salute dell'ambiente, poiché ovviamente incidenti di questo tipo hanno un effetto devastante per l'una e per l'altra. Hashtag Autotrasporti finisce qui, grazie per la cortese attenzione. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti.